Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani, benvenuti a Salva Danaio. Non ci sono davvero altri colori per dipingere le giornate sui mercati, tutto nero, stamattina di nuovo l'ennesima batosta, la settimana si è aperta con un'altra sentinella d'allarme innestata da nulla di fatto del G7 sul tema della risoluzione dei debiti sovrani in Europa, mentre si allarga sempre di più la convinzione per un prossimo default della Grecia, circostanza che ora viene giudicata non più fuori discussione ma solo una questione di tempo se si guarda i progressi compiuti in queste ore, per definirli progressi, poi non tutti li definiscono in questa maniera, dalla Germania circa la costruzione di un piano B per ricapitalizzare le proprie banche nel caso appunto di una bancarotta di Atene. Per questo stesso motivo già questa settimana Moody's potrebbe declassare le banche francesi le più esposte sul fronte dei bond ellenici, e questo è stato il nuovo fatto che stamattina ha rappresentato un po' la benzina sul fuoco, cioè l'arrivo di questa riduzione di giudizio per BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, a causa appunto della loro esposizione verso la Grecia. In questa situazione, hanno detto alcuni operatori questa mattina, i listini non hanno, azionari naturalmente, neanche più la forza di reagire, di rimbalzare. Questo è quello che sta accadendo. Infatti, dopo il venerdì nero, la borsa ha riaperto la settimana con cali pesantissimi. La peggiore in questo momento è Parigi, perde 4 punti percentuali, Francoforte meno 2,84, Londra argina i cali, perde il 2%, Milano meno 3,41. Naturalmente l'osservata speciale di oggi era anche l'Italia, non tanto la Francia per la questione delle banche, quanto l'Italia per le aste del tesoro che si sono concluse poco fa, e naturalmente il tesoro italiano, per poter attrarre investitori, ha dovuto riconoscere rendimenti in forte rialzo sia nell'asta dei titoli a 3 mesi, per il quale praticamente tra l'altro non c'erano aste dal marzo scorso, sia per quella a 12 mesi. Poi vi dirò i rendimenti, come sono andate, e naturalmente l'altro grande test è sempre quello continuo che si fa, che gli investitori fanno sullo spread, sul differenziale di rendimento fra il titolo decennale italiano e il paritetico tedesco. Stamattina in apertura di seduta era schizzato subito a 380 punti base, per poi scendere di nuovo leggermente sui 370. Ma in ogni caso la tensione è ancora alta, non si ha la benché minima visibilità su quando, su questo fenomeno di discesa della borsa, su questa tensione sui titoli di Stato appunto, potrebbero concludersi. Stamattina di nuovo monitoraggio a Salva Danaio della situazione con i nostri ospiti che saluto. Fabrizio Fiorini, responsabile investimenti di Aletti GSL SGR, buona giornata e benvenuto. Buongiorno a voi, grazie. Buongiorno anche a Jacopo Ceccatelli, amministratore delegato di JC Associati, una società di consulenza e di analisi finanziaria indipendente. Ceccatelli, buongiorno e benvenuti a Salva Danaio. Benvenuto. Grazie, anche a lei. Buongiorno. Allora, naturalmente per le vostre osservazioni sul tema di questa mattina, non so quante domande di curiosità insomma potete avere. Quella che così ho avuto modo di testare piuttosto frequente quando affrontiamo il tema mercati a Salva Danaio è proprio cosa potrebbe succedere nel caso di una bancarotta italiana. Io faccio molta fatica anche a pronunciare questa parola, però di fatto è nell'ordine del giorno delle preoccupazioni di tutti i nostri ascoltatori. È giusto appunto che ci si interroghi, speriamo appunto di non doverlo fare nella concretezza nei prossimi mesi. Per adesso occupiamoci solamente della Grecia. Vi dicevo, 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande se volete intervenire in diretta, oppure scriveteci alle 349 238 6666. Allora, Fabrizio Fiorini, volevo commentare subito con lei l'esito dell'asta del tesoro di questa mattina. Il tesoro doveva collocare complessivamente 11 miliardi e mezzo di titoli, e per collocarli serenamente, per così dire, ha dovuto offrire rendimenti molto elevati. Per la tranche a un anno, da 7 miliardi e mezzo, quella più corposa, il tasso medio è balzato al 4,15%. L'ultima asta su questa scadenza c'era stata in agosto, il tesoro aveva riconosciuto allora il 2,95%. Siamo ritornati quindi oltre la soglia del 4% per la prima volta dal settembre del 2008. Per quello che riguarda la scadenza a 3 mesi, non c'era un'asta

politica e non solo politica ma anche fiscale europea. Ne è un caso, e parto dalla fine, il caso Stark ne è un esempio. I tedeschi si sentono liberi di agire indisturbati all'interno dell'Unione Europea. Stark si permette di dimettersi dal Consiglio della Banca Centrale Europea, lasciando a Draghi una situazione di difficile gestione, permettendosi di poter dire quali sono le ragioni del suo dissenso, proclamandole apertamente e, diciamo così, alimentando la speculazione, in quanto lui ha riferito: io mi dimetto perché non sono d'accordo con l'acquisto di titoli periferici da parte della Banca Centrale Europea. Da questo punto di vista, trattandosi di un organo, diciamo, democratico, la maggioranza ha votato un certo tipo di comportamento e quello deve diventare il nuovo dogma. Non può permettersi una persona come Stark di uscire e accampare le proprie ragioni. Può uscire dicendosi dissenziente su un certo tipo di comportamento, ma io penso che anche la Germania a quel punto avrebbe dovuto dire: se tu esci dal Consiglio devi uscire per ragioni tue, ma non puoi minare il lavoro che hanno fatto i tuoi colleghi o che tu comunque hai contribuito a fare. Questo è un esempio. E la Merkel è più in generale l'allenatore di questa squadra di campioni tedeschi, che ha fatto sì che tutti si potessero permettere di pensare di essere immuni da ogni critica e di poter invece criticare chiunque altro. La Germania per prima ha attaccato la Grecia, ha voluto una ristrutturazione del debito con il coinvolgimento dei privati, un coinvolgimento che avrebbe potuto far risparmiare alla Grecia 36 miliardi di euro. Oggi forse ci siamo, nel frattempo la gestione ha fatto sì che probabilmente ne abbiamo persi circa 600 di miliardi di capitalizzazione delle banche a causa dell'incertezza di questo tiremolla che la Germania in primis e la Merkel come sua responsabile ha generato in tutto questo periodo. Non poteva essere più chiaro di così. Intanto 20 sinistri spirano sulle banche francesi. Vi do un po' il quadro della situazione questa mattina di quanto stanno scendendo, anche se qualche anticipazione l'ho data prima. BNP Paribas meno 14%, Société Générale meno 10,40%, Crédit Agricole meno 9,42%, ma anche AXA va male, meno 9,38%. Le prime tre che ho citato sono quelle che Moody's ha in procinto, insomma, quest'idea di ridurre il merito di credito, di ridurre appunto il giudizio sul debito. Sono sotto osservazione già da giugno, questa settimana potrebbe arrivare appunto questa bocciatura. Eccoci ritrovati a Salva Danaio, che questa mattina riapre la settimana esattamente come l'ha conclusa. Per la verità, venerdì, più che occuparci di giornata di mercati, ci siamo guardati indietro di 10 anni, abbiamo fatto il punto della situazione su quello che è cambiato sui mercati dall'11 settembre del 2001 e qua abbiamo anche detto più volte che effettivamente sui mercati l'11 settembre lo stiamo vedendo perpetuarsi dal 2007, da quando è esplosa la crisi dei mutui subprime, e oggi ancora siamo ben lontani dal vedere la fine di questo tunnel, che anzi si è proprio allungato, è diventato ancora più nero in questo periodo con la forte crisi degli stati sovrani dell'Eurozona. Oggi di nuovo giornata nera sui mercati, particolarmente bersagliata dalle vendite è Parigi, che perde il 4,29% per colpa del tracollo dei titoli del settore bancario, che dovrebbero essere da un momento all'altro, come preannunciato, bocciati da Moody's, l'agenzia di rating. Tra l'altro anche lì ci sarebbe da fare un altro discorso, magari se stamattina avremo tempo lo faremo, sul comportamento delle agenzie di rating, che per ritornare a ricostituire la loro verginità persa con la crisi di Lehman Brothers adesso devono mettersi a bastonare tutte e tutti ogni giorno senza più alcun problema. Jacopo Ceccatelli, volevo sentire anche lei relativamente alle prime considerazioni che abbiamo fatto oggi. Tra l'altro Moody's è pronta ad esprimere un verdetto negativo sulle banche francesi. Che le banche francesi fossero piene di titoli greci lo sapevamo da tempo, così come in portafoglio ne hanno tanti anche i titoli tedeschi. Pure stamattina questo fatto sembra essere un tema completamente nuovo, l'ennesima scusa che gli investitori prendono per uscire dal mercato azionario e chiedere rendimenti molto alti ai titoli di Stato. Lei ha intravisto qualche elemento di novità stamane? No, di novità rispetto, come dire, al recente passato direi di no. È un mercato molto nervoso, molto fragile, e quindi appunto, come giustamente citava lei, ogni scusa in questo momento è buona per vendere o comunque uscire da qualsiasi cosa abbia una componente di rischio. Sicuramente la notizia in queste fasi, le notizie di un downgrade di banche europee non è una buona notizia, per contro ormai il mercato dal punto di vista dei livelli di rating tendenzialmente sopravanza le agenzie di molti mesi, questo vale sia per le banche francesi sia per i titoli di Stato europei, quindi il fatto di avere poi degli abbassamenti di rating credo sia un elemento che non toglie, non aggiunge molto. In questo momento il vero problema non sono i rating, sono appunto i tassi di rendimento e quindi di rifinanziamento sia degli stati, di alcuni stati europei, sia della gran parte degli istituti bancari europei. E sì, sono su livelli ben superiori rispetto ai rating attuali e anche ai rating prospettici post downgrade. So che vi faccio fare un salto nel buio quando vi faccio queste domande, però è anche per capire un po' che tipo di sensazioni avete rispetto alla fine di tutto questo. Quale potrebbe essere, a suo avviso, Ceccatelli, il catalyst, l'elemento nuovo che potrebbe veramente mettere la parola fine a questa ondata di vendite che colpisce tutto e tutti senza ritegno, anche se in particolar modo nelle ultime settimane abbiamo visto di nuovo nel mirino i titoli finanziari e i titoli industriali, perché poi si è anche acuito di nuovo il timore per una ricaduta in recessione generale. Non lo so, per esempio, la notizia che c'è la consacrazione definitiva della bancarotta greca, la decisione di pilotare verso un default, una bancarotta ordinata, appunto, questo paese, potrebbe essere la fine a tutta questo nuovo vortice che stiamo vedendo da qualche settimana, oppure il mercato vuole qualcos'altro? Ma indubbiamente metterebbe fine a alcuni elementi di incertezza, ma ne aprirebbe altri, perché indubbiamente il mercato a quel punto comincerebbe a fare 2 più 2 e comincerebbe a temere il prossimo default di un paese sovrano europeo. Io credo che la fine di tutto questo, sono d'accordo col collega che ha parlato in precedenza, sia soprattutto politica, cioè ci vuole un forte momento di discontinuità a livello politico europeo. Da mesi ormai si parla di varie soluzioni, purtroppo la sensazione è che il mondo politico sia sempre un passo indietro rispetto a quello che succede e quindi come dire, i risultati raggiunti non sono mai sufficienti. Io ritengo che ormai il mercato abbia somatizzato il problema euro come un problema strutturale che va risolto con una maggiore integrazione fiscale, ormai lo dicono tutti e credo che sia questo il passo da fare, ma va fatto in maniera molto convinta, mentre continuiamo ad avere come dire, soluzioni un po' tampone, ormai è chiaro che qui non appunto i tappi non bastano più, bisogna proprio rifare il meccanismo di funzionamento dell'Europa e dell'euro, e credo che non si possa se non andare verso un'integrazione fiscale con tutte le conseguenze che ne conseguono. È però insomma un processo che richiederà tempi lunghi, richiederebbe tempi lunghi, in ogni caso l'emergenza adesso va gestita. Diceva Ceccatelli di questo mercato che chiede sempre di più, non si accontenta più di niente, come dicevamo anche prima a microfoni spenti con Fabrizio Fiorini, alla Grecia tutto quello che fa non basta più, nel fine settimana ha aggiunto una nuova micro manovra a tutto quello che ha già fatto negli scorsi mesi, un'altra manovra aggiuntiva da 2 miliardi e mezzo di euro che porterà una nuova tassa sugli immobili che verrà pagata addirittura attraverso la bolletta elettrica da parte appunto dei proprietari di immobili all'Italia. È già stato detto questa mattina, la manovra che è stata fatta potrebbe anche non bastare, anche se lì ritengo che forse il Presidente del Consiglio non avrebbe dovuto dire non faremo altro, Fiorini, che ne so, non lo so, per non gettare anche da parte sua ulteriormente benzina sul fuoco. Volevo chiedere un commento a tutto questo anche a lei, ma anche se ritiene che ci possa essere un momento in cui possa arrivare uno stop. Che cosa potrebbe essere lo stop che faccia finire tutto questo movimento delle ultime settimane? Beh, diciamo quello su cui punterei di più, anche se non è proprio quello utile, è l'intervento della Banca Centrale Americana il 21 di questo mese. Loro hanno sempre dimostrato di essere molto più proattivi e di cercare di anticipare il mercato, e se qualche volta è capitato fossero in ritardo, a quel punto di giocare molto più forte sul piatto di quanto il mercato si potesse attendere. Quindi il rilancio del banco, perché le banche centrali e i governi hanno il banco, deve essere più forte di quello dei giocatori. Quindi sulla Banca Centrale Americana io ripongo molta fiducia. Purtroppo sull'Europa e sulle delusioni date dall'Europa i segni iniziano a essere pesanti, soprattutto perché purtroppo il banco è tenuto dai tedeschi. Io rimarco questa cosa, e a questo punto da là deve venire qualche segno. Quello che mi fa ben sperare, ma purtroppo non dovrebbe essere così, è che anche l'indice tedesco ha iniziato a perdere. Fino a un mese fa perdevano gli indici euro italiano, spagnolo, quello francese era un po' più debole, quello tedesco rimaneva sui massimi. Oggi finalmente, così almeno capiscono qual è la situazione, anche l'indice tedesco ha iniziato a perdere, siamo 25-30% sotto i livelli massimi. Quindi probabilmente anche all'interno della Germania si aprirà il dibattito. È meglio continuare ad essere così rigidi o forse qualcosa può rientrare anche in termini di problema alla Germania? Ecco, questo secondo me, la scoperta di questo dovrebbe far rinsavire, o quantomeno spero, faccia pensa avere tedeschi e si possa andare verso la soluzione, anche perché la soluzione c'è ed è facilissima, dall'Eurobond che è una prima soluzione alla partenza dell'FSF anticipata e non rimandata a fine di settembre, quindi abbiamo tutti gli strumenti, il ritardo dell'implementazione di questi strumenti ci sta facendo tanto male. Sentiamo le prime riflessioni dei nostri ascoltatori. Daniele da Prato, buongiorno. Buongiorno. Sì, buongiorno. Daniele, abbassi la radio perché risentiamo il ritorno, grazie. Ecco, la mia domanda è molto semplice, ma se veramente l'Italia fallisse, usiamo i termini per bene, cosa succederebbe? Sarebbe veramente un arrivo finale oppure un punto di ripartenza come ha fatto l'Argentina? E poi soltanto un inciso, il suo esperto ora ha parlato di roulette, ha paragonato la borsa a una roulette, sapere che tutta l'Europa e noi stessi siamo governati da un gioco come potrebbe essere una roulette russa con delle pistole puntate alla tempia. Non ha esattamente detto roulette, ha detto Fabrizio Forini che il banco lo tiene la Germania, quindi allora lui ha ampliato un po' la fantasia. Però Daniele, la ringrazio per le sue osservazioni. Il tema del fallimento italiano, allora, ci diceva un altro collega di Fabrizio Forini, Ceccatelli, settimana scorsa, Marco Vicinanza di Arca SGR, che non è una cosa che può succedere da un giorno all'altro, tanto per cominciare non abbiamo più neanche la vecchia moneta, per cui bisognerebbe ristamparla al volo, ci sono anche tutte problematiche di ordine pratico che devono essere tenute in considerazione prima di arrivare ad una situazione del genere. Però non lo so Ceccatelli, vengo da lei. In tutta onestà, sono comunque ipotesi che si prendono in considerazione anche all'interno degli studi delle vostre società, fate consulenza, appunto analisi finanziaria indipendente, così come poi lo chiederò a Fabrizio Fiorini, se queste ipotesi si prendono in considerazione nelle simulazioni che si fanno all'interno delle società di gestione del risparmio. Ceccatelli. Sì, allora intanto un conto è il default, quindi il fallimento o la ristrutturazione del debito, un conto è l'uscita dall'euro. Sono due cose non necessariamente collegate, anche se indubbiamente uno scenario potrebbe anche portare per forza l'altro. Tanto per cominciare, la Grecia è tecnicamente fallita, ma ancora nell'euro ci sta. Sì, diciamo che è chiaro che dipenderebbe molto dalle modalità, default o ristrutturazione del debito con contemporanea uscita dall'euro in maniera caotica sarebbe la cosa peggiore. Sicuramente sono scenari che purtroppo dobbiamo cominciare a prendere quantomeno in considerazione, non dico che siano gli scenari più probabili, ma purtroppo dobbiamo considerarne la possibilità più o meno elevata. È evidente che è corretto dire che non si può pensare di uscire dall'euro dall'oggi al domani per motivi logistici e pratici. Ricordo che l'avvento dell'euro ha comportato anni di preparazione anche solo proprio fisica, di stampaggio delle monete e della carta moneta. Quindi questo è uno scenario di fatto impossibile, perché non c'è alternativa. Lo scenario della ristrutturazione è uno scenario invece teoricamente meno impossibile, usiamo questo termine. È chiaro che se fosse una ristrutturazione controllata e governata per esempio dalle autorità europee, potrebbe di fatto non essere un trauma enorme, sicuramente sarebbe come una sorta di patrimoniale che però colpirebbe in maniera molto, molto asimmetrica solo i detentori dei titoli di Stato. Se fosse una ristrutturazione caotica, è ovvio che gli scenari sarebbero più difficili da prevedere. Ci mancherebbe pure, insomma, che la Germania si prenda una responsabilità di questo tipo, speriamo che ci pensi bene. Intanto le borse scendono ancora, meno 4,57% per Parigi adesso, meno 3% a Francoforte, meno 3,68% a Milano, meno 2% invece a Londra. Stavo guardando il comportamento delle banche nell'Eurozona, in Europa, e infatti a Londra stanno crescendo, Lloyds guadagna un punto addirittura, mentre le altre piazze vedono proprio i titoli a picco: Deutsche Bank in Germania meno 8%, Commerzbank meno 8,60%, Aareal Bank meno 9,81%, ma la peggiore in assoluto BNP Paribas meno 13,62%, Societe Generale meno 9,89%. Qual è la più presa di mira, tra l'altro, a parte le vendite di questa mattina, ma proprio quella che ha in portafoglio più titoli di Stato? Fiorini, se lo ricorda così, sì, perché stavamo parlando prima proprio del rapporto tra titoli di Stato e capitalizzazione. Sì, Sogien ha una particolarità, che ha anche un investimento diretto in Grecia, e quindi avendo una partecipazione in una banca, questo la espone anche dal punto di vista non solo del debito greco, ma anche del lending, cioè dei prestiti fatti ai cittadini greci. tutto sommato, mettendo anche insieme tutta questa esposizione, azzerando quella che è l'esposizione delle banche francesi in Grecia, loro oggi, con solo la perdita di oggi, hanno perso più di quanto avrebbero perso azzerando l'intero investimento in Grecia. Questo dà una misura di quanto le valutazioni stiano andando ben oltre la realtà dei fatti. Altri ascoltatori chiedono se la banca dovesse fallire qua, ovviamente, siccome molti hanno conti correnti su BNL, che appunto è praticamente ormai francese, BNL BNP Paribas, non succede niente perché c'è il fondo interbancario di tutela dei depositi, dobbiamo ricordarlo più volte. Io poi capisco che effettivamente emotivamente tutto questo non giova, ma se andiamo a vedere anche Unicredit perde praticamente l'8% al giorno, eppure ancora abbiamo tutti, me compresa, il mutuo là, i conti correnti e quant'altro, per cui non succede niente al momento. Quando semmai dovesse verificarsi uno scenario più brutto, cercheremo di capire appunto come mettere a riparo i vostri risparmi, ma al momento abbiamo visto questi momenti devastanti anche tra il 2008 e il 2009 e con i nostri conti correnti sono rimasti tutti lì senza problemi. Fiorini, tra l'altro, prima eravamo rimasti in sospeso anche con lei sulla riflessione del scenario peggiore che avete simulato nella vostra società di gestione del risparmio relativamente ad una ipotetica difficoltà più grande per quello che riguarda l'Italia, perché io altre parole non le voglio dire, sono proprio un po' scaramantica anche da questo punto di vista. Beh, allora, queste parole, la parola di cui io fallimento, allora innanzitutto vorrei fare una distinzione: Argentina e Italia sono cose completamente diverse. Per l'Argentina ristrutturare era non rendere conto a nessuno, dico che pago meno quelli che sono i miei debiti e poi svaluto la divisa e con quello vedo di riuscire a esportare qualcosa di più, molto, in maniera molto semplicistica, però questa è la situazione. L'Italia sta all'interno dell'euro, l'Italia non ha più la sua divisa, quindi non solo si dovrebbe trovare a stamparla da un giorno all'altro, perché questo sarebbe il meno, si troverebbe a pagare debiti in euro con lire, e chi ha vanta crediti nei confronti dell'Italia si troverebbe a ricevere lire, quante ne vorrebbe in cambio di un euro? Questo sarebbe tutto da definire. Quindi la situazione è molto particolare, l'appartenenza all'euro vincola l'Italia, un fallimento dell'Italia a questo punto diventerebbe un fallimento dell'euro, euro inteso come divisa, perché ciò che rimarrebbe dell'euro sarebbe tutto da definire, e chi ha crediti in euro dovrebbe ricevere in cambio eventualmente altre divise. E vorrei ricordare una cosa: la Germania ha un interscambio commerciale con l'Italia pari a quello che ha con la Cina. Quindi le imprese tedesche si troverebbero a dover avere a che fare per una gran parte del loro export con aziende italiane che a quel punto dovrebbero pagare in lire per non saltare. Non so quanto. Non è possibile che non abbia pensato a questo aspetto la Merkel, mettendoci sotto scacco in questa maniera violenta come ha fatto in questi giorni. La Merkel purtroppo politicamente guarda solo a un aspetto e dimentica di dire il resto ai suoi elettori. Dice che in questo momento lei si fa paladina del non voler pagare o non voler far pagare i tedeschi per la Grecia, e si dimentica di dire che i costi del eventualmente far saltare la Grecia sono molto ma molto superiori, e questo mi sembra proprio una cosa estremamente scorretta dal punto di vista anche politico, perché a questo punto dovrebbe dire: A, il caso salta la Grecia, paghiamo questo; B, non salta la Grecia perché gli diamo i soldi noi, paghiamo questo. Cosa scegliete? È chiaro che se delle due io presento solo una versione è molto facile che i tedeschi mi credano su quella, ma l'altra è molto peggio. E ultima cosa, fallimento Italia, cosa vorrebbe dire? Noi abbiamo fatto delle simulazioni. In questo momento, se anche ipotizzassimo che l'Italia fallisse, che i titoli italiani valessero il 50% di quello che valgono oggi, quindi l'Italia a quel punto avrebbe un debito al 55%, quindi sostenibilissimo, le banche italiane, il paradosso è che anche in quel caso, con la capitalizzazione attuale, con le valutazioni attuali sarebbero quasi economiche. Quindi c'è una situazione estremamente particolare, i prezzi non rispecchiano nessun tipo di valutazione, i prezzi rispecchiano una questione di domanda e offerta, gli stranieri, americani in particolare, ma anche asiatici, vendono e non guardano al rendimento per i titoli di Stato né al prezzo per azioni, hanno bisogno di vendere perché non vogliono un certo tipo di esposizione, non si mettono a fare un calcolo se una svalutazione di un certo tipo di un'azione piuttosto che un rendimento di un certo tipo su un bot hanno un senso. In questo momento c'è chi vuole vendere e dall'altra parte c'è chi non vuole comprare. Noi stessi abbiamo delle difficoltà, perché un italiano che decide di comprare un BTP e il giorno dopo ha già perso l'1% su un BTP, o compra una banca che in termini di valutazione è economica e il giorno dopo ha perso il 5%, al terzo giorno non c'ha più voglia di farlo, perché ha già comprato per 3 giorni, ha già perso il 15% su un'azione, il 3% su un CTZ, non è sostenibile. Infatti è un mercato che non è assolutamente più capace di fare delle valutazioni sulla base dei fondamentali, per dirla proprio in maniera molto molto molto banale, per farla capire ai nostri ascoltatori. L'esempio che faccio c'era quello che riportava tra l'altro il Corriere della Sera qualche tempo fa, lo ha fatto questo calcolo anche il Sole 24 Ore, tipo Generali, che non quota più neanche la dotazione immobiliare che ha, già può essere, come dire, una, può dare appunto la misura effettivamente di come sia assolutamente priva di razionalità, privo di razionalità il comportamento appunto che si ha nei confronti delle società quotate. Intanto vedo che anche le banche, tanto per così completare il discorso, a Piazza Affari stanno peggiorando la loro seduta. Unicredit è scivolata a 70 centesimi e perde l'8%. A proposito di banche, c'è un'osservazione di Salvo da Palermo. Buongiorno Salvo. Buongiorno, sì, è proprio Unicredit, volevo dire. Il mio consulente di riferimento mi dice di stare calme, ma come si fa a stare calme e stare tranquille? Cioè, vorrei vedere come sta qua, quattro risparmi di una vita, adesso che sono in pensione se ne stanno andando in fumo. Al di là di questo, giorni fa una trasmissione di finanza hanno interpellato un esperto e il giornalista gli ha chiesto, dice, cosa devono fare, ma se dice, io in questo momento comprerei perché si compra a ribasso. Allora il giornalista risponde e le ribatte di nuovo, dice, ma lei oggi ha comprato? Vado a comprare subito e poi gli vado in ferie tranquillamente. Come si fa a dare una notizia del genere? Salvo, infatti noi ce ne guardiamo bene, ci mancherebbe altro. Certo che se si è magari un investitore professionale si hanno anche le risorse finanziarie per poter adesso acquistare. Detto questo, però, non è detto che su questi livelli non si possa scendere ancora. Purtroppo mi rimane solo un minuto di tempo, non riesco a fare un'analisi approfondita su questo tema che è sempre molto affascinante, la tentazione di fare un po' di shopping con valutazioni di questo genere. Però Jacopo Ceccatelli, 30 secondi, e chi l'ha detto che abbiamo raschiato il fondo? Come dire, si può scavare ancora? No, assolutamente, anche perché appunto il mercato ormai è in una fase dove esprime i flussi, quindi se ci sono più flussi di vendita i prezzi scendono a prescindere dalle valutazioni fondamentali. È vero che sul mercato azionario in questo momento le valutazioni sono basse, rispetto a tassi bassissimi sono ancora più attraenti. È chiaro che chi vuole può comprare, ma solo se si può permettere, nella misura in cui si può permettere di perdere ancora molto, perché come abbiamo visto nel 2008 i prezzi in queste fasi non hanno fondo, almeno nel breve, e quindi può aver senso comprare in un'ottica di medio termine su alcune valutazioni, ma bisogna essere pronti a perdere anche molto, perché in questo momento non ci sono, come dire, reti di sicurezza. Ceccatelli, grazie per essere stato con noi, buona giornata. Grazie. E grazie anche a Fabrizio Fiorini. Adesso io così ho preso per oro colato quello che ha detto, vediamo se questo primo fermo a questa situazione bruttissima lo mette la Federal Reserve nelle Federal Open Market Committee del 20-21 settembre. Intanto buona giornata e buon lavoro, se vi divertite nella sala operativa, non lo so. A presto, buona giornata. A domani. Salva Danaio.